avanti. Sei a Giulio, sto provando l'antenna, come è successo? Intanto 6:30 e la radio è buona. Perché questa voce? È appena stato a letto? No, no, sono rauco. Stava gara, qualche colpo d'aria ti dà? Ogni tanto mi si abbassa la voce. Perché questa antenna qua è rispettosa. Attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia, attenzione Italia. Vedi tu quello che ti vuoi comprare. Io mi avrei preso una PLC 1000 o al massimo una 800. E anche io volevo prendere quella, ma non riesco a trovarla. Ho guardato anche su internet, non ce l'ha. Ci sono i fatti simili e quelli fatti dalla Cina. Ho capito, no, quella della Sigma devi prendere. Se la trovi prendi quella della Sigma. Quella già era un'antenna, come si deve. Quella lì invece quella lì rimane invece. Io l'avevo regalata a Stefano, la PLC 800, ma questa è già roba di 3 anni fa, eh. Chissà poi se l'ha utilizzata lui, se l'ha usata, boh. Evidentemente è così. Oh vabbè, sì, sempre con la magnetica però. Tu pensa che adesso non ti ho nemmeno sentito in questo passaggio che hai fatto. Sentivo che stavi parlando ma non si capiva niente, perché di Santiago 3, anche di meno, con molto QSB, è inutile, no, la magnetica non serve già, non serve, o la metti fissa o non le metti niente, il discorso è sempre quello. Va bene, la magnetica sempre sempre male, va benissimo, io vado, va bene. Va bene lo stesso, però bisogna anche avere propagazionale, se c'è stazionale è normale che ci fa. Non ti sento più già, c'è la propagazione che ti sta coprendo. Va bene, si sa, l'antenna magnetica serve poco, insomma, vai. Funziona ma serve poco. Tutto lì. Adesso sei arrivato di nuovo Santiago 7. Adesso sei di nuovo con segnale buono, eh. Purtroppo è così già. Io a preferenza avrei preso quella staffa, l'avrei messa nel bauletto di dietro, nella sportellone di dietro, l'avrei messa. E sono sicuro che funziona meglio. E non si rovina la macchina. Perché tu avvitti dall'interno, avvitti. Ed è un puntino che devi, l'avvitti con la stringe, è un puntino appena che tocca la lamiera, non è quello il discorso, per cui va benissimo, poi anche snodabile, esiste anche snodabile, se deve entrare in garage lo puoi anche abbassare ad esempio, già, no, non ti sento più, no, tu pensa, lo stesso discorso succede quando si mette in macchina Marco con la magnetica, non esce, non serve, è da buttare, la magnetica è una porcheria, non c'è niente da fare. È inutile stare lì, insisti, butti i soldi inutilmente. Ma non la voglio buccare la macchina, non la voglio rovinare, capito? La macchina è nuova, non la so. Tanto la rovini con la staffa si fissa alla lenta, dalla parte interna del cofano, non te la rovini, la macchina non te la rovini, non deve bucare niente. Ci sono le viti che vanno a pressione là dentro. Ah, lo so come sono state, ma le viti fanno il buco e fanno la... Buca tutto, buca tutto. Si buca tutto. Con una bella punta grossa però, mi buca tutto. Io il cannello, se lo volete, ciao, ciao a tutti. Oh, ciao, fra. Vabbè. Lui vuole fare miracoli con la magnetica, ma non c'è niente da fare. Ciao Franco, prendi. Ciao, sei diventato anche Gianfranco. Ciao anche a... non posso dire ben sentito perché neanche io lo sento a Gianni. Riprendi Giulio. Gianfranco, credo. Salve a tutti. Ciao Marco, eccomi, già può confermare Marco che con la magnetica quando ti allontani appena non ti senti più, è così. Ciao Gianfranco, avanti. Sì, ciao a tutti. Ma se questa cosa della macchina, mamma mia, io ce l'ho, cioè dopo il secondo giorno, anche dopo il primo giorno ce la vedo subito buccata. Cosa stai lì a fare a tutto, l'importante è lo fare bene il buco al centro della capotta. Se lo fai sul lato magari è una cosa un po' seccante. Ma il discorso è sempre quello, Gianfra. Se vuoi farti ascoltare ti devi mettere, al minimo ti devi andare a Usilo con la magnetica, se no chi ti sente? Ma dai, è una porcheria, un'invenzione è quella che è proprio che non vale niente. Non vale niente. Avanti Marco. Vabbè, ma se l'antenna è lunga, più lunga è, anche se è magnetica, più rende, no? Sì, ti mette la turbo, ti mette la cosa, la volta va turbo, ti mette sulla macchina. Sempre magnetica è inutile, quanto vuoi, la puoi mettere lunga quanto vuoi, la resa è sempre limitata, non c'è altro da fare, la magnetica è magnetica. O buchi la macchina, oppure tu prendi quella staffa, la metti, ci vengono delle staffe molto belle da mettere nel bauletto dietro, che non la rovini la macchina, nella maniera più assoluta, non è come sta dicendo Gianni, la macchina non la rovini, perché da dentro ci sono due viti, stringi questi due viti e sono due, la punta di un chiodo, la punta di un chiodo praticamente, e dall'interno che togli appena di vernice, dal portabagagli, dal portellone, però almeno rende, puoi mettere anche lignare, eccetera. Lui si sta sdoppando da ieri con le stazionarie, non riesce a abbassarlo, non ce la fai mai a abbassare le stazionarie con la magnetica, non c'è niente da fare. Vai Franco. Ciao anche a Marco. Ho visto delle staffe che utilizzano, non so se hai fatto caso, nel Giro d'Italia o insomma nel ciclismo, praticamente nel cofano di davanti, visto che per unire il parafango con la carrozzeria ci sono dei bulloncini da 10, praticamente togli uno di quei bulloncini e la staffa va collegata lì dentro, quindi senza bucare niente alla macchina, senza fare segni con chiodi né nulla, praticamente utilizza quel bulloncino lì. Da lì poi passa a fianco alla chiusura del cofano e va verso l'esterno, non verso la, perché sennò poi il cofano non apre. E poi lì tu ci attacchi l'antenna, è semplicissima da attaccare, da togliere e da mettere, e c'è un buon piano di massa, credo, qua. Avanti Gianfra. Sì, è entrato anche Marco. Poi le rilancio il micro. Poi bisogna vedere quante sono queste stazionarie, se sono fino a 1,8 vanno bene, non pretendere da antenne mobili di scendere al di sotto, a meno che non la costruisci tutta, la tagli in maniera certosina, ma tanto poi ti sposti un pochettino di frequenza e subito risalgono, non è che è immobile così. Anzi, se guardi le stazionarie che può fare un portatile con un'antenna con meno, ti spaventi, arriva a 2, 2,5. Poi riprendi Marco. Comunque Giulio, conferma un po' quello che ha detto Gianni, io avevo quella staffa che potevi mettere a portello, a baule, a cofano, però un po' intacca la vernice, come? Anche se ha una piastrina di alluminio che si interpone tra la vite e la vernice, te lo lascia il segno, te la intacca la vernice, quindi non è che sia proprio... quando la macchina è nuovissima ti rode metterla, dai. Comunque dai, sono i fornelli, vi saluto, rimango in Querisce. Ciao Marco, allora, alle prossime, ci sentiamo. Non so, comunque non si può ottenere tutto se non si fanno i lavori come si deve, non c'è da fare. Il discorso è sempre quello. Sì, può essere l'alternativa, una staffa in acciaio inossidabile, con un foro, tutto un bulone, magari anche dallo trasportatore e ci metti quello, ci metti come a tipo rosetta in poche parole, e anche così funziona la grande, perché funziona e non hai rovinato la macchina. Cosa, vabbè, comunque faccia come creda, ma io non le devo mettere in macchina, ma ti rifà. Cappa, dove ci sei ancora Gianni? Io non lo so, da che zona era lui, Giulio. Più una cosa, che voglio sentire quello che dice Giulio, perché io ho piazzato la Mini Turbo e non aveva stazionaria, andava bene. Cosa hai fatto tu? La Mini Turbo non aveva stazionaria? E beh, e secondo te quando non ha stazionaria la l'antenna è già a posto, no? Secondo te? E i parametri sono finiti, ma dai, lasciamo perdere. Vabbè dai, comunque fai come vuoi già, sei tu padronissimo di fare quello che vuoi nella tua macchina. Avanti Gianfra. C'è questo spagnolo che sta parlando, che sente benissimo, lo soprammo va quasi. E comunque le antenne senza stazionarie in realtà non esistono, quindi è inutile pensare all'1-0, non c'è, non esiste. Quindi un pochino stazionari ci sono sempre, poi ci sono antenne che funzionano bene in quell'arco di SVR, l'importante è la risonanza, quindi è così. Marco sta andando a preparare la colazione, il cappuccino, la brioche. Riprendi Franco. Sì, ho chiesto a Giulio, forse non hai sentito, o stava parlando Gianni magari, in che zona è adesso Gianni? Perché qua è proprio zero. Io lo sentivo appena, ma poi è fallito del tutto. Vediamo se lo sentiamo adesso. Gianni, dove sei? Io non lo sento proprio. Ma è così, torniamo al discorso che abbiamo fatto un paio di giorni fa, no? Abbiamo discusso, abbiamo fatto tutto un questione improntato in pratica sull'elettronica. Lasciamo perdere gli applaghi, meglio, va, riprendi. Sì, già ce n'è poca gente sotto, Poi Gianni, tieni presente che è difficile arrivare bene, no? Con questi segnali dalla Spagna e da tutte le parti, quindi se sei fuori è anche normale che sia così. Gianni, ti chiedono dove sei, la posizione. Guarda, sono a terra, poi mi fermo, metto la frantella e vediamo un po' come mi prende. Franco, serra secca con la base magnetica. Serra secca, vuol dire che per me è negativa, un po' anche per colpa mia, che la mia antenna non è sul tetto, è sempre a livello di balcone, però all'inizio lo sentivo, poi l'ho perso del tutto, adesso non lo sento più, mi dispiace, comunque lo saluto ancora. Poi anche ho guardato l'antenna, era collassato un elemento, praticamente si era sfilato, era rientrato uno dentro l'altro, l'elemento della canna da pesca, Giulio, quindi era più corta praticamente l'antenna. Cosa è successo? Si era ossidato, così hai detto, non ho capito bene. No, due elementi si sono collassati, praticamente la canna da pesca praticamente si è accorciata, è scesa un elemento dentro l'altro, quindi c'era il filo in esubero. Poco fa l'ho smontata, meno male, già facevo fretta qui dalla finestra, l'ho riportata su, gli ho messo un altro giro di nastro. Forse con le dilatazioni ha ceduto un po' la canna e sono entrati gli elementi uno dentro l'altro, capito? Sì, ho capito, sì. Beh certo, se si abbassa è chiaro, se non è tirato il filo è chiaro che non può andare bene, certo. E vabbè, comunque già ripara benissimo, non è un problema. No, io ho qualche un altro tipo di progetto per sistemare la bobina, che la voglio fare più precisa possibile a quella originale, e la faccio. Peccato che non ho una cosa di plastica, ma la faccio di legno, infatti stamattina ne stavo progettando e ho fatto già il prototipo e va bene così. E poi naturalmente fare l'antenna, ma non ho il cavo, in questo momento non ho il cavo. Va bene, avanti Gianfra. Un tubo dell'acqua, che io sto guardando adesso, dovrebbe essere il diametro di quelli di scarico, forse è poco più grosso, ma al limite la puoi anche ricoprire qualcosa. Se hai quella della cosa, per fare il masse, un coso di tubo di quello grigio di scarico, che tra l'altro è molto grosso, ne ho un pezzo di, è abbastanza resistente e non c'è problema. E niente, poi Franco, che cosa ha detto, una canna da pesca ma con balmo o come? Sì, sì, ho creato una, non proprio un balloon, una bobina, dai, un avvolgimento, più o meno la stessa funzione, dai. Ma quindi il monoband? Beh, diciamo che spazia dai 25 fino, penso fino ai 30, con poche stazionarie, diciamo che è una banda molto larga. Le stazionarie purtroppo sono relative, perché anche il carico fittizio c'ha pochissime stazionarie, come vorrebbe Gianni, però è un carico fittizio, non va da nessuna parte. Vediamo Gianni se riusciamo a tirarlo fuori, perché ripeto, c'è un segnale molto forte di propagazione. Gianni, dove sei adesso? Sente lì? Sarà secca? Io il segnale non te lo posso dare, perché non è uno Smith CB, capito? Qua va dei numeri che sono differenti, capito? Diciamo potrei dire 3 su 5, 3 su 4, una cosa del genere. Però vediamo se Giulio ti sente. Giulio è al quadrato adesso, eh? L'ho sentito, Santiago 2 e 3. Questo è da 2 e 3 passava, era molto basso e la radio si capiva poco. Comunque ho capito alcune parole, dai. Riprendi Gianni. Gianni, l'hai sentito a Giulio? Forse sta cambiando antenna. Ma qua ancora zero, anzi forse è peggiorato pure. Ma c'è questo spagnolo che ha livelli di 8, a picchi di 9 anche. No, qua neanche lo spagnolo, ma ripeto, la mia antenna non passa il tetto, quindi è un po' colpa mia anche. Comunque, Giacla, sì, col tubo grigio io ne utilizzo all'incirca un metro, quello lì mi fa da base, poi ci infilo dentro un tubo da elettricista da 32 mm che ci passa dentro, giusto, perfetto, senza nemmeno ballarci dentro. E poi sul tubo da elettricista ci metto la canna da pesca, come coso, e lo faccio entrare almeno un metro dentro la canna da pesca, praticamente tutto il primo coso, come si chiama, la prima parte dell'antenna, la parte più grossa, entra praticamente quasi tutto un metro dentro questo tubo, per cui va benissimo, è rinforzato al massimo così, poi quando si aspetta pazienza, costa 15 euro una canna da pesca, 15 euro e 90 per l'esattezza, da 7 metri, siccome vuole da 8 metri per poter far entrare il filo sino alla fine, perché io metto il filo interno, mettendo il filo interno, però la punta è troppo sottile e non ci passa il filo. Allora cosa ho fatto? Ho eliminato la punta e utilizzo questo tubo da scarico di lavandino, quello grosso da PVC, quello grigio, e va benissimo, va più che bene. Ok, e appunto proprio per quel tubo lì ho sto facendo la bobina adattata su quel tubo lì, in modo che rimanga bella centrale, il PL 239 rimane sotto, rimane. Già quando è fatto già ti mando la fotografia, solo che in questo periodo sto uscendo poco e niente, diciamo, per cui non è che non sarà una cosa velocissima dal momento, però è già fatta e studiata. Ok, riprendi Fla. Sì, poi la fantasia e anche le attrezzature non ti mancano magari. Io no, l'avevo fatta sempre con la bobina, con quel tubo sempre in PVC, non per scarico, non so cosa sia. In azienda lo usano per passarci dei fili dentro, quindi è sempre roba elettrica. Però non è 66, ma mi sembra che sia 62 o 63, ma diciamo che non creiamo molti problemi. A volte cosa faccio? Ne prendo due pezzi della stessa misura, uno lo taglio, quindi si allarga appena appena e ci infilo quello da 62 all'interno e diventa più o meno 66, quindi si può fare anche così, più o meno, a grandi linee. Avanti Gianfranco. Vediamo un po' come sono adesso, Giulio. Io ti dicevo bene. Sto bene il segnale. Mi sembra che... vabbè, te lo do dopo, dai, qua è segnato io, ma può essere un 9, tranquillo. Vediamo se ti ha ascoltato Giulio. Giulio ha cambiato antenna, credo. No, non arriva, arriva troppo basso, non si capisce quello che dice. Sarmi troppo basso, sta arrivando, non riesco a capire quello che dici. Poi se ti muovi specialmente è ancora peggio, perché a momenti magari ti posso sentire meglio e altri momenti niente del tutto. Sì, ma è così. Vabbè. Sì, il tubo grigio, cioè il tubo rosso, quello rosso da 63 mm, io l'ho ingrossato con la carta adesiva, sino a portarla a 66 mm. E l'avvolgimento ce l'ho fatto sopra quello lì. E poi ci metto tappo sopra e tappo sotto, infilandoci il tubo da 40 mm e rimane centrato, rimane alla perfezione e non si muove per niente la bobina o fra. Così, non so se riesco a farmi capire. Sì, sì, no, certamente, ho capito. E l'altro giorno ho trovato io una bobina di del filo che usano le imprese per i decespugliatori, quindi sono delle bobine un po' importanti. E ho visto che il diametro ci siamo sui 65-66, e l'ho messo da parte, adesso la devo un po' arrangiare perché diciamo per essere capienti ha i bordi molto grandi, quindi bisogna ridurre i bordini delle estremità e secondo me esce una bella bobina, anche quella da provare, dai. Avanti Gianfra, io ancora non lo sento, ha migliorato leggermente, ma lo sento sempre sul QRM. Avanti Gianfra. Sì, speriamo che gli spagnoli diminuiscano un po'. Gianni, vieni avanti, che antenna hai messo adesso? E dice se sei soprattutto da fermo, che stai facendo queste cose. No, adesso ho quell'antenna, quella che si usa per l'SOS col portatile, dai. Sì, è abbastanza buona, fenomeno per me. Però tieni presente che io sono in linea ottica, a differenza magari di Giulio o di Franco, quindi il quadrato lo vedo a vista, ecco. La radio è buona comunque, il segnale, diciamo, considerato tutto, che c'è anche una grossa propagazione, dovrebbe essere sufficiente, normale con quella potenza. Io in quest'ultimo passaggio l'ho sentito, e Gianni ti ho sentito in quest'ultimo passaggio, sentiamo 4, 5 e la radio era buonissima, non forte però buona, chiara. E adesso c'ho quell'antenna dell'SOS, dai. L'antenna dell'SOS, e qual è? Non la conosco, boh. Vabbè dai, poi ci spiegherai. Avanti fra. Adesso l'ho sentito appena, però non ho capito le parole che ha detto. Avvicinati un po' a casa, io sono talmente in basso che sicuramente lui, il suo segnale mi passa sopra di parecchi decine di metri, capito? Hai giù? Sì, evidentemente è così, purtroppo, vabbè, la macchina è per macchina, comunque. Da dove si trova adesso al quadrato, mi sembra di aver capito che dovrebbe arrivare con un'antenna performante come si deve. Vabbè, ma Marco è rientrato oppure cosa va a fare? Marco ci sei? No, Marco deve essere che sta ancora pranzando, perché questo è l'ora del pranzo per Marco. Avanti Gianfra. Io sapevo che era l'ora della colazione, il pranzo lo fa notte più tardi. Poi la cena la fa domani mattina. Devo aprire questo microfono perché ogni tanto il pulsante si deve essere sporcato all'interno e c'ha quei micro pulsanti, è un disastro. Gianni, ci spieghi un po' questa antenna, cosa è? SOS è un po' generico, forse di quegli apparati che vendevano una volta, dici almeno il modello dell'apparato su cui era messa, così almeno sappiamo come è fatta, ecco. Ok, adesso guardo se la trovo com'è sta cosa. Giulio, non so se te le ricordi, una volta c'era quel portatile, una specie di cosa quadrata con un pulsante grande, ed era un kit SOS così, giusto per avere un qualcosa con cui comunicare. E l'antenna mi sa che era con una carica, ecco, la sto guardando, no, questa c'è un'antenna telescopica addirittura. No, non lo so, Gianfra, non lo so. No, ma se stavo usando questa antenna adesso, a conferma appunto di quello che dicevo poc'anzi, che la magnetica non serve, mi sta dando ragione, sempre che stia usando quell'antenna lì, perché adesso sto incominciando a sentirlo, prima non lo sentivo quasi per niente, adesso sto incominciando a sentirlo. Gianni, spiegami quale antenna stai utilizzando precisamente in questo momento. Ha detto che questa è quella SOS. Adesso non l'ho sentito. Sì, già lo credo, l'ho fatto lo spagnolo che stava parlando. Sta usando la base magnetica grande, ho sentito. Gianni, spiegati, in questo momento cosa sta usando? La base magnetica con questa antenna che dice che non funziona o quella SOS? Punto di domanda. Può darsi che ci sia qualcosa lungo il cavo allora, con le saldature di quell'antenna, a volte anche in fabbrica quella difettosa può capitare, ecco. Dunque Franco e Giulio sta usando quella, è certo che se non ricordo male è un'antenna che dovrebbe avere una carica a metà antenna, diciamo così, da una carica nera credo, di quelle, e poi c'ha i due stili elatti. No, la mia carica questa è con un'antenna di radio, si sa di quelle telescopiche, e su e c'ha una carica di tipo portatile allora, ok, è un'antenna telescopica, Giulio, quindi era giusto quello che ho visto, è un'antenna telescopica, quindi lui alza un'antenna e quella va bene, solo che essendo telescopica il movimento non so se regga. Riprendi, Giulio. Sì, e io continuo a dire quello che ho detto poc'anzi. Adesso mi ha fatto anche Santiago 9, penso un po', non so adesso in quale posizione si trova, in quale punto della città si trova, però mi è arrivato addirittura anche Santiago 9, l'ho sentito tutti e due gli ultimi passaggi che ha fatto, l'ho sentito benissimo, l'ho sentito. Per cui penso che l'abbia sentito anche Franco. Vai Franco. Sì, capo, qua ha passato anche 9, 9-10, dove sei? In zona mia? Vieni avanti ancora, Gianni. No, sono la zona spaziale, la zona Monte Rosello Alto, via Grazia Veneta. Poc'anzi hai trovato un canale proprio e sei arrivato a 9-10, quindi dipende dalla zona, vedi. Avanti, Giulio. Sì, infatti, continua a sentirlo comunque, continua a sentirlo abbastanza bene, per cui con quell'antenna va meglio di quella magnetica. Va bene così, dai. Avanti, Gianfra. Sì, mi meraviglia che non si pieghi parecchio fino a romperla camminando. Ma quanto è lunga Gianni quest'antenna? Non ha cariche, hai detto, quindi anch'io la sto guardando con la sua base magnetica, è vero che in effetti cariche non ne ha, però quanto è lunga? È corta, pochi centimetri, sarà 75 centimetri, Gianfra. Il fatto è che praticamente l'antenna c'ha, è fatta così, dentro una base lo ha una pista di rame a spirale che fa da carica per raggiungere la lunghezza apposita, Gianfra, deve essere come quella del Maxcom 7, kit emergenza, non so se ti ricordi. Questa è di questo, pigliarla. Adesso io per dire, camminando, stavo misurando le stazionarie e ci avevo uno e uno, al contrario di quello che ho magari camminando, no. Ci avevo uno e uno camminando e naturalmente dove ci sono gli altri sarebbe per appena un minuto, però la maggior parte delle volte è uno e uno e va benissimo. Inoltre ho fatto una cosa, la metto al centro campo e mi dà più stazionaria, la metto davanti e me ne la rimetto. Quella è la bobina, con la bobina di carico lì messa con su in basso che probabilmente varia parecchio le cose. Tutto lì di norma le mettono proprio a metà per avere meno problemi, perlomeno a quelle frequenze. Quindi Giulio, è un'antenna telescopica, fatta ad hoc per quell'apparecchio che utilizzava, che c'era questa specie di bobina all'interno della base magnetica, in modo da darle, da aumentarne la lunghezza. Praticamente in teoria dovrebbe essere un'antenna a quarto d'onda per 27, perché mettiamo che l'antenna sia lunga, che ne so, adesso 70 cm, la bobina deve essere abbastanza consistente, quindi per arrivare almeno alla lunghezza classica, che dovrebbe essere di 2 metri e spiccioli. Ok, è anche rientrato Marco. Riprendi Marco. Sì, dicevo, io il kit emergenza Maxcom 7 è un'antenna molto simile, no? Praticamente lo stilo è lo stesso, siamo sui 70 cm telescopico. Nella base magnetica dove si collega lo stilo c'è una specie di pista di rame fatta a spirale per raggiungere il minimo sindacale della lunghezza, capito? Però a occhiometro nella mia dovrebbe essere un ottavo d'onda, è troppo poca questa pista di rame a spirale, troppo corta, capito? Quella deve essere molto ma molto simile, all'epoca c'erano le copie delle copie di questi kit emergenza, John Fla. Ho capito. Bisognerebbe vederlo più in maniera dettagliata questo rendimento. Riprendi Franco. Sì, capa. No, io una volta ho fatto delle prove con il fuoristrada, essendo troppo alto, per non mettere, diciamo, l'attacco dell'antenna sopra la capota, usavo una staffa che partiva, diciamo, dalla ruota di scorta, inserivo una lamiera piegata un po' a L e lì attaccavo il supporto dell'antenna. Però ho provato sia una che l'altra, e la base magnetica sopra la capota, cioè la capota, rendeva molto meglio. Comunque vi devo salutare perché mi stanno chiamando. Un abbraccio a tutti, Marco, Gianni, Gianfranco e Giulio. Un abbraccio a tutti, avanti Giulio. Ok, ciao Fra. Un abbraccio ricambiato, dai, ci sentiamo, fate sentire la sera bene o male verso questo lato, ci siamo sempre. Avanti Marco per salutare a Franco. Marco è sparito, avanti Gianfra. Sì, starà girando il minestrone. Ciao Franco, alle prossime, buona serata. Saliamo dopo Gianni. Scusate, saluto Franco. Giulio mi ha chiesto qualcosa, ora per Franco, per salutare. Sì, è la... Come sta andando da qua? Da qui, dove sei adesso, ti sento benissimo, Santiago 8, va benissimo. Va bene, questa antenna va bene, l'ho provata 3 volte, c'è un giocato, anche a parte la fotografia che c'è. Buonasera. E chi è quello che sta uscendo così male? Ma lo è, tu sì. Molto saturo Claudio, molto molto saturo. Saturo. Guarda che devi essere in FM, prova. Aspetta. Giulio, conta una cosa, è che quell'antennino lì, a parte lo stilo, eccetera, c'è anche un cavo RG213. Sì, buonanotte, scusate. Mi sentite, Claudio? Malissimo Claudio, malissimo. Sì, va bene, d'accordo Marco, tutto quello che vuoi, però vabbè, comunque, ognuno è padrone di usare quello che crede, non è un problema, non è un problema assolutamente. Vediamo se Claudio si è messo a posto. Claudio? Malissimo, tutto saturo, è basso anche il radio. Avanti Gianfra. Sì Claudio, molto basso l'effetto saturazione, quasi come la persona che parla in FM. Che apparato è? Barrett. Ma l'hai toccato da qualche parte, perché prima andavi bene. L'ho toccato, sì. Quello è sofistico, quello è sofistico. Non è roba da, fare con gli strumenti di pari linea, se lo puoi mettere a posto, se no scalpita parecchio. Lo sto dicendo perché ce l'ho provato anch'io con la strumentazione che non era all'altezza, però non c'è verso. Marco, invece ti volevo chiedere una cosa, questi baracchini che stanno uscendo, piccoli piccoli, ne hai provato qualcuno? Tipo che ne so, un esempio, ma AMFM, SCB, multibanda, multi tutto? No, AMFM. AMFM, io sono fermo al Polmar ZX40, che è una pupù. No, io mi stavo orientando più su quegli apparecchi anche omologati, però che abbiano MFM SB piccoli. Guarda, c'era carino il McKinley, sembra un autoradio, non pure niente, però può non piacere di estetica. Vai Claudio, hai risolto? Oh, comunque per il cavo, volevo dire, Gianni con quella base, c'ha il cavo sottile, quello da 3 mm, Gianfra, non mi viene il nome però, il cavo coassiale sottile, da 3 mm, RG, porca miseria, può essere il 174. Non lo so cosa sia, ecco di voi diciamo perché perdite. Vediamo Claudio se si è messo a posto, anzi forse c'è Gianni anche, vediamo se è arrivato a casa. Gianni? No, io sono fermo, sto godendo la serata. Ah, ho capito. Vediamo un po', Claudio, se hai risolto, Claudio. No, ho toccato qualcosa, aspetta. Ok, quando sei a posto richiama. Gianni, dove sei esattamente? Vicino a casa tua o nel piazzale di Via Prato? Allora, esattamente sono nella strada che porta su al monte, verso, per andare verso Piazza San Francisco, c'è quella strada che abbiamo fatto. Ho capito, ho capito. Quella che va a tastare i due credo che sia. Claudio, sempre importante, sembrerebbe ancora fattura la cosa. No, mi appare un'altra scritta, ho toccato qualcosa, adesso bisogna riattaccare al computer e rifare il set, settaggio. Molto complicata questa radio. Se te l'ho detto, non è cosa. Ma quelle sono radio che si configurano e poi non si toccano più, capito? Se uno ritocca poco a poco, poi non capendo quello che sta a fare, succede un macello. Riprendi Giulio, ora lo dovrei sentire, non fa problemi a Gianni. No, adesso lo sto ascoltando bene, non c'è problema. Adesso lo sto ascoltando bene. Gianni, quella strada lì, dove porta? Quella lì porta a Bade Manedda, se confermi, vero? Dimmi adesso se va bene. Ho detto, se quella strada lì, dove sei, è quella strada che porta a Bade Manedda praticamente, la parte altissima della forestale lì, del Monte Rosello, dai. Stai riuscendo male Claudio, molto male ancora. Appunto, ho capito, sì. Quella zona è abbastanza alta, è una bella zona, molto bella. Claudio, aiuto, dai, ti sei messo a posto? Vabbè, l'ultimo passaggio l'ho sentito malissimo. Avanti, Gianfra. Cos'era presidente Marco con l'affare lì? No, forse sta girando sempre il minestrone. Riprendi Gianni. Ok. Claudio, vieni avanti, vediamo cosa succede. Mamma mia, questi beep strani. Si sente un po' di tutto. Stamattina presto c'era di tutto di più. Alle 7 Giulio c'era una preparazione, ma non come adesso che è due pari QRM, proprio chiara, ma sentivano dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, c'era mezza Europa. Sì, sì, ci credo. Alle volte è così, ma io mi ricordo negli anni passati era sicuramente meglio di questi anni che sono appena recenti, diciamo. Io mi ricordo, parlavo tutti i santissimi giorni, intorno alle 5:30 o 6 del mattino, con Brindisi, immancabilmente, ma con una radio così chiara e pulita, con cui si erano sempre 5-6 persone, e io entravo tutte le mattine in estate, e si parlava sempre con questa Brindisi, cioè Brindisi la città, no? Per cui ti puoi immaginare, e verso quell'ora la preparazione era molto ma molto bella, pulita. Però adesso non l'ho più sentita così bene come prima, come negli anni passati. Vabbè, adesso ci sono tanti segnali, ci sono in aria e oia, con tutte le radio private, le TV private, dunque tutto incomincia a smorzare. Vediamo se è rientrato Marco. Marco? Bocca piena, continuate, dai. Senti adesso? Male, sempre male. Stai essendo troppo potente, prova a abbassarle un po' la potenza. Al minimo, love, potenza al minimo. Ma devi guardare il wattmetro, perché io mi ricordo diceva minimo ed era la stessa dell'alta, e secondo cosa hai toccato anche quello c'è. Lascio controllo. Claudio, minima non può essere la potenza, perché quando uno usa il baracchino va arrivi Santiago 9, 9, 2, con questo mi sta arrivando a 9, 18, per cui non è minima, come pensi. Evidentemente ti sembra minima, ma in realtà non è così. Comunque non è display, segna love, non segna sei. Non ci fare affidamento su quello, Claudio. Su quel tipo di apparati, anche su questo che sto usando, sono attento, si parificano, capito? Quindi ci vuole il wattmetro. Attento, mio hermano, se lo scusiamo, io della Sardini adelante. No, Gianni, per carità, se te li attacchi poi abbiamo chiuso, cioè dobbiamo andare. Mi sto sfottendo da solo, campo, lo sto facendo con portatile di carino. E beh Gianni, hai deciso poi quale prendi? Turbo 2001. Purché sia a base originale, Gianni, che sia la sua. Sì, mi sta arrivando. Abba, abbozza ogni segnale. Giulio, riprendi. Ok, la propagazione sta aumentando sempre, sì, è vero. Vabbè, comunque, purtroppo quando arriva la voce forte non è che ci possiamo fare niente. Vediamo un po' se Claudio è riuscito. Claudio, ma hai necessità di fare controlli continui? Se vuoi mi sposto, mi ci spostiamo, non so, chiedi, non diventare con la faccia rossa, devi chiedere qualcosa. Aiù, capo, da puto. No, non c'è problema, tanto adesso è attacco il computer, grazie, rimanete qua. Va bene, d'accordo. Deve essere vergognoso stasera. Claudio, sto scherzando. Vai Giafra. Non è così semplice, no, immaginare non fa da fare. È un po' complicato. Controllate anche se sei a banda larga o banda stretta. Come modulazione, non sa mai, magari se si è posizionato in banda stretta e allora tende a tagliare. Ok, cosa volevo dire? Sì, Marco, ripetimi la marca che mi ha detto. Qual è uno passabile, moderno, però non un vecchio cartuccio, Ma di quelli piccoli, proprio il minimo indispensabile? Guarda, stanno parlando bene della modulazione del CRT Millennium. Dovrebbe uscire persino bene in modulazione, benino comunque dicono, per essere quello che è. CRT Millennium. Ok, adesso lo controllo. È abbastanza, come si dice, barato. Millennium versione 3. Se 55 euro praticamente. Poi naturalmente non so se esce bene di su o se esce bene dopo che gli alzi il trimmer della M, però poi va fuori omologazione se spinge più di tanto. Va comunque. La VM e questa è della TDR, sì, la 2,4 Marco. Vabbè, giusto per usarlo come era una meraviglia. Arrivavano da Roma, da Viterbo, insomma in tutta quella zona lì. Sentivo chiari, con una radio potentissima. Oh Marco, non so se tu ascolti mai quei programmi lì. Avete parlato in due, non è passato nessuno, ho capito solo che radio potentissima quei programmi lì. Ma ti riferivi a quell'apparato nello specifico, il CRT Millennium? Ma non lo so, io avevo scritto sulla tastiera web SDR Roma 4, tu prova a farlo e verrai che ti si apre una radio, ti si apre con tanto di schermata, eccetera, e poi ti sintonizzi i canali che vuoi e arrivano, che è una meraviglia, ma forte, perlomeno quando c'ero io stasera ero così forte. Ah, lei SDR online, sì, ce l'ho, c'è Roma 4, oppure quella in Sicilia, di cui non ricordo il nome, ce l'ho in memoria, ma non ne sto ascoltando molto. Alla fine, come non entra il 27, non ascolto nemmeno le altre bande, men che mai l'HF, vai Giocla. Sì, no, non è brutto, è anche carino se vogliamo, giusto per sentire, per usarlo come nel portabagagli va bene. Addirittura il portabagagli. Quello è così piccolo che sta nella portiera, nel portaoggetti della portiera, o nel tunnel centrale, se ce l'hai nella macchina, col cassettino nel tunnel centrale. Guarda, c'è tutti i posti occupati tra radio, sì, devo mettere la mano a questo microfono, tra radio e coso, è tutto pieno già, non ci sta più niente. Quindi l'unico è nel cofano dove c'è la ruota, no, dove c'è il kit, perché ruota e ruota non c'è più, dove c'è il compressore per gonfiare le ruote. Si scoppia una gomma come chi fa il compressore? No, io c'ho roba seria, non si preoccupare, riparo la ruota anche senza, in teoria anche senza gonfiarla, perché ho le cariche a gonfiaggio rapido. A proposito di quello, parliamo un attimino di quello, Gianfra. Avete considerato che anche la macchina mia è così. Ma se supponiamo il caso che disgraziatamente uno prende un marciapiede oppure una pietra, una cosa, e la gomma si spacca, siccome non hanno dato ruota di scorta nella macchina nuova, e ti hanno dato questo accessorio per gonfiare così, ma come si può fare? Non è possibile, ragazzi. Uno si deve comprare per forza la ruota di scorta, a parte, strano che la Ford non dia una ruota di scorta, ragazzi. Non è un discorso Ford, sono tutti oramai così, è diventato un opzionale per tutte le marche. La macchina uguale alla mia, sbattuta, la ruota di scorta nuova, completamente mai usata, con gli attrezzi e con tutto all'interno, nuovissima, stessa gomma che c'ho sulla macchina. Sì, ma se si spacca la gomma, come fai a gonfiarla? Io posso capire che riesci a gonfiarla se c'è un foro, trovi un chiodo e va bene, si sgonfia la gomma e hai il coso, tutto l'equipaggiamento per poterla gonfiare. Ma supponiamo disgraziatamente tocchi un marciapiede, una punta, una pietra e ti si rompe la gomma, come stai a gonfiarla? Non gonfierebbe secondo me. E infatti non gonfia. E appunto, allora uno è costretto a comprarsi una gomma a parte, cioè una ruota a parte, perché se no uno non si sa mai, uno va lontano e si ritrova in queste condizioni e come fa? Deve chiamare i carri attrezzi perché non ha la gomma di ricambio. È una cosa, guarda, vergognosa con questo sistema che stanno facendo adesso queste aziende del cavolo. Ma quando mai? Senza ruota di scorta? Non è possibile. Giulio, fai come ho fatto io. ho chiamato un amico che fa il gommista, è andato al ferrovecchio, c'era una macchina uguale alla mia, sbattuta, ha tolto la ruota di scorta che non era mai stata usata, con attrezzi, con tutto, c'era la scatola degli attrezzi all'interno, come la palapia, con il porta oggetti attrezzi di plastica, nuova di zecca, 30 euro me la dà. Sei stato fortunato, già, sei stato fortunato. Io sto parlando della macchina nuova, non della macchina vecchia che ho, che poi anche quella nuova, tra virgolette. Ma per dirti, no, aspetta che forse Claudio ha risolto il problema. Claudio, avanti. No, aspetta. No, ancora no. È un menù un po' complicato quello. Capito, Gioca? Non è possibile, ragazzi, perché una macchina come quella che abbiamo noi così, che ci debba essere questo problema, ti devi comprare la ruota da parte, non è possibile. Sì, un attimino. Ok, d'accordo. Capito Gianni? È la macchina nuova e non ti danno la ruota di scorta, a me che sono proprio miserabili di questa gente. Ma lo so, io ho chiesto alla Fiat che costava 350 euro la ruota. Siglia di Magnati, che trovo 350 euro per una ruota, sono andato, ho chiamato mio amico a Porto Torres e me l'ha buscata subito, tanto sono uguali a quelle dell'Alfa Romeo, stessa marca, stesso disegno e uguali identiche. Ha trovato un Alfa Romeo così uguale, stesso motore della mia ci aveva, la Giulietta incidentata, ha preso la ruota di scorta nuova di zecca, ci aveva nemmeno usata, nulla, non l'hanno mai toccata. 30 euro, più per i codici si vuole, ha tolto la mia, ha provato se andava bene come buca e tutto è stato perfetto. Sì, sei stato fortunato Gianni, sei stato molto fortunato a riguardo di quello, perché se no non è possibile, certo. Adesso ci tento anch'io, non so se andando magari dalla fascia carrozze riesco a procurare, dai una ruota per la Ford EcoSport, perché una ruota è abbastanza grossa quella, e quella costa un sacco di soldi, bisogna vedere se riesco a trovarla, sarà difficilissimo perché la macchina è abbastanza nuova, per cui una ruota ci sarebbe, ci vorrebbe, non si sa mai, soprattutto quando la usa mia figlia, capita che va a lavorare in certi posti e passa in posti assurdi, si può rompere una gomma. E come fa a rientrare? Devi chiamare Caratrizi. È assurdo però, guarda. Mi senti? Sto migliorando già. Come mi senti? Già ti sento. Cosa vuol dire sta migliorando? Molto meglio di prima, Claudio. Prima era proprio basso e saturo, adesso è più presente. Sta a me, Gianfra, dillo tu. Giulio, dillo tu. Ebbene, l'hai già detto tu, va bene così, certo. Sì, non è perfetta già Claudio, però ha migliorato moltissimo, Allora, come ha detto Marco. Vabbè, tempo al tempo. Non è facile questa, è un computer, è una cosa che non ho mai visto in 40 anni di radio. Una cosa allucinante. C'ha 268 memorizzazioni di menu. Vedete voi se può essere fattibile una cosa del genere. Me ne sono capitate di radio, ma come questa, una HF, una cosa spaventosa. Comunque non vince lui, ti dico che non vince lui. Allora, adesso un attimino, vi lascio un secondo, rientro nel menu perché ho visto una cosa, il 160esimo movimento del menu che mi dà un programma, voglio vedere che cosa c'è dentro, vediamo un attimo. Sì, perfettamente, forte e chiaro. Ehi, Aeroglio, te l'ho sempre detto. Riprendi Giulio un attimino, poi vi richiamo, perché io sono duro di comprendorio e quindi anche lui deve essere così come dico io. Vabbè, ma c'è anche Tony Alti però come questa, vero? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questa è tonalità in HI, non si scherza, non mi butti due a me. Avanti programma di gioia, ti brocco, avanti brocco in vero, bro. Figurati di Gianni se si accontenta con quella radio, Claudio, cosa mi credi che non si sta ascoltando? C'è un grido. vabbè, sì, adesso comunque ha migliorato moltissimo, dai. rispetto a prima ha migliorato moltissimo, adesso è abbastanza accettabile, certo, però no, no, stai tranquillo che quello lì non è la radio che piace a lui, o già. Ma mi sembra che è entrato anche Luca Focati. Luca, tu sì? Luca era. No, stai pur certo che già deve funzionare come il K questo, te lo assicuro al 100% che funziona come il K. Perché c'è tutte le caratteristiche di poter funzionare bene, si tratta di capire bene, ti ripeto, un menu così io non l'ho mai visto, tu immaginati puoi mettere anche il numero di telefono, mettere il codice d'accesso, se non hai quel codice d'accesso non lo accende neanche la radio, figurati, è una cosa spaventosa veramente, mai vista una cosa del genere. Aveva ragione Gianfranco, comunque già migliorato, questo è il microfono normale con la posizione, il livello del microfonico in HI, in low è troppo bassa. La potenza è esattamente, Giulio, allora la potenza è esattamente, come hai detto tu, questa è la minima dei 25 watt, 50 quasi modulati a picco, mentre l'altra che avevo prima era 120 watt, per quello che stavo uscendo il saturo. E infatti adesso il segnale è più basso rispetto a come era prima, certo, ma almeno è comprensibile la voce, gli auguri, adesso provo a mettere l'amplificato, vediamo, può essere che con l'amplificato sia ancora migliore, sicuramente sarà migliore qua. Infatti adesso mettiamo l'MC60, vediamo come si comporta con queste modalità. Marco, riprendi? Marco è andata a mangiare la frutta. Sì, vabbè, avanti. Luca, ci sei? Luca Maricomi, ci sei? Allora, questo è il... dai che stai tornando tu, dai che stai tornando tu. Mi si è attaccato il connettore. Allora, questo è l'MC60, questo è l'MC60. Dai che sei tornato tu. Leggermente più bassa di come la usi solitamente, però sei tornato tu, dai. Vabbè, 440 c'ha il potenziometro, questo è fa HI e LOV, modalità spinta microfonica. È tutto un sistema, praticamente sul display ti segna quello, non ha nessun potenziometro.